corri, corri, cingo, cengo, yuhu, vola dolce, caro borrichito, sei veloce più di un cavallito, yuhu, quando sai che vado dal mio amor. Trotta, trotta, trotta, cingo, cengo, yuhu, vola sotto il bel cielito lindo, fra la gente che ci sta guardando e non sa qual è il segreto del mio cuore. Tu conosci quella che mi attende nella notte che discende e accarezzerà la tua criniera con la mano sua leggera. Corri, corri, corri, cingo, cengo, yuhu, vola dolce, caro borrichito, portami nel sogno all'infinito. Corri, corri, cingo, cengo, trotte va, ho un grazioso borrichito che mio nonno per regalo mi lasciò. Ha un bel nome, cingo cengo, e con lui trotterellando a spasso vo. Yukeleli, yukeleli, se l'attacca al callesino lui sa già dove si va. Yukeleli, yukeleli, sa portarmi verso la felicità. Corri, corri, cingo, cengo, yuhu, vola dolce, caro borrichito, portami nel sogno all'infinito. Corri, corri, cingo, cengo, trotte va.